droga. Io non posso vivere altrimenti che secondo il mio cuore. Voi vivete secondo le vostre mani. Io ho solo pochi minuti, il tempo non mi ha aiutato. È solo fibrillazione, è solo avere pazienza, è solo essere coscienti. Presto.